Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Epilogo. Mosca, dicembre 2009. Eccoci tornati all'inizio di questo libro. Quando ho fatto il mio articolo su di lui, Limonov era uscito di prigione da 4 anni. Di tutto quello che ho appena raccontato, non sapevo niente. Mi ci sono voluti quasi altri 4 anni per mettere insieme il materiale, ma ho sempre avuto la sensazione che qualcosa non andasse. Sembrava che Edouard fosse costantemente microfonato, come se recitasse la parte di se stesso davanti alla telecamera di un reality. Nel proprio paese era diventato la star che aveva sempre sognato di essere, scrittore osannato, guerrigliero mondano, abitué dei giornali scandalistici. Appena rimesso in libertà, aveva scaricato la valorosa piccola Nastia per buttarsi su una di quelle donne di categoria A alle quali non ha mai saputo resistere. Un'incantevole attrice diventata famosa con un telefilm intitolato KGB in Smoking. I suoi trascorsi carcerari ne facevano un idolo dei giovani. L'alleanza con Kasparov, un uomo politico presentabile, e non escludo che Edouard abbia immaginato veramente di arrivare al potere sull'onda di una rivoluzione di velluto, come era accaduto in passato a Václav Havel. Alla fine, forse il lettore se lo ricorderà, le elezioni del 2008 sono andate esattamente come aveva previsto il giornalista inglese che avevo conosciuto alla conferenza stampa del tandem Limonov-Kasparov. Putin ha rispettato la Costituzione, rinunciando al terzo mandato, ma ha escogitato un sistema ingegnoso, simile a quello delle automobili con i doppi comandi che si usano nelle scuole guida. Il nuovo presidente, Medvedev, occupa il posto dell'allievo e Putin, nelle vesti di primo ministro, quello dell'istruttore. Questi lascia guidare l'allievo, che deve pur imparare, e quando se la cava bene si congratula rivolgendogli un paterno cenno del capo. È comunque rassicurante sapere che in caso di grane, accanto all'allievo c'è un uomo di esperienza. Ma la domanda che tutti si fanno è: nel 2012 Putin riprenderà in mano il volante, come gli consente la Costituzione, che vieta 3 mandati solo se consecutivi? Oppure il docile Medvedev ci avrà preso gusto, sfiderà il suo mentore e forse lo annienterà, come Putin stesso ha annientato quelli che l'hanno fatto re? A Putin penso parecchio mentre si avvicina alla fine di questo libro. E più ci penso, più ritengo che il dramma di Edouard sia stato credere di essersi sbarazzato dei vari capitani Lievitin che gli avevano avvelenato la giovinezza e vedersi invece parare davanti tanti anni dopo e quando credeva di avere ormai la strada spianata un super capitano Lievitin, il tenente colonnello Vladimir Vladimirovich. In occasione della campagna presidenziale del 2000 è stato pubblicato un libro di colloqui con Putin il cui titolo in originale è In prima persona. Sarà stato probabilmente trovato da un qualche addetto alla comunicazione, ma è un titolo azzeccato che potrebbe andar bene per tutta l'opera di Limonov e per una parte della mia. E in realtà va bene anche per Putin. Dicono che Putin parli in politichese, non è vero. Putin fa quello che dice, dice quello che fa, e quando mente è così spudorato che non ci casca nessuno. Se si esamina la sua vita, si ha l'inquietante sensazione di trovarsi davanti a un doppio di Edouard. Putin è nato in una famiglia dello stesso tipo di quella di Edouard, soltanto 10 anni dopo. Padre sottufficiale, madre donna delle pulizie, tutti accalcati dentro una stanza di una comunalca. Ragazzino gracile e introverso, è cresciuto nel culto della patria, della grande guerra patriottica, del KGB e della FIFA che esso incuteva a quei senza palle di occidentali. Da adolescente è stato, per usare le sue stesse parole, un teppistello. E se non è diventato un delinquente, lo deve soltanto al judo, a cui si è dedicato con tanta intensità che i suoi compagni ricordano ancora le terribili urla provenienti dalla palestra dove si allenava da solo la domenica. È entrato negli organi per romanticismo, perché si annoveravano uomini eccezionali che difendevano la patria e lui era orgoglioso di diventare uno di loro. Ha diffidato della perestroica, non ha mai sopportato che masochisti o agenti della CIA facessero tante storie per i gulag e i crimini di Stalin. La fine dell'impero è stata per lui la più grande catastrofe del XX secolo e ancora oggi la pensa così. Nel caos dei primi anni 90 si è ritrovato dalla parte dei perdenti, dei beffati, ridotto a fare il tassista. Adesso che è al potere, adora, come Edward, farsi fotografare a petto nudo, i muscoli in evidenza, con addosso i pantaloni della tuta mimetica e un coltello da comando alla cintura. Come Edward è freddo e astuto, sa che l'uomo è un lupo per gli altri uomini, crede solo nel diritto del più forte, nell'assoluto relativismo dei valori e preferisce fare paura piuttosto che averla. Come Edward disprezza i frignoni che considerano sacra la vita umana. L'equipaggio del sottomarino Kursk può impiegare 8 giorni a morire asfissiato sul fondo del mare di Barents. Le forze speciali russe possono gasare 150 ostaggi nel teatro della Dubrovka e 150 bambini possono essere massacrati nella scuola di Beslam. Ma Vladimir Vladimirovich dà al popolo notizie della sua cagnolina che ha partorito. La cucciolata sta bene, poppa di gusto. Bisogna vedere le cose in maniera positiva. La differenza tra Putin e Edward è che Putin ce l'ha fatta. Putin è il capo. Può ordinare che i testi scolastici cessino di parlare di Stalin, richiamare all'ordine le ONG e le anime belle dell'opposizione liberale. Si inchina pro forma davanti alla tomba di Sakharov, ma tiene sulla scrivania, ben visibile a tutti, il busto di Dzerzhinsky. Se l'Europa lo provoca, riconoscendo l'indipendenza del Kosovo, dice «D'accordo». Ma allora avranno l'indipendenza anche l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia e manderemo i carri armati in Georgia e se non siete carini con noi vi chiuderemo il rubinetto del gas. Modi tanto virili dovrebbero fare colpo su Edward se questi fosse in buona fede. Invece Edward scrive, come Anna Palikovskaya, dei pamphlet in cui spiega che Putin non solo è un tiranno, ma un tiranno scialbo e mediocre, a cui è toccato in sorte un destino troppo grande per lui. La falsità di questo giudizio mi sembra lampante. Ritengo che Putin sia uno statista di grande levatura e che la sua popolarità non dipenda soltanto dal fatto che la gente è decerebrata dai media a lui asserviti. C'è dell'altro. Putin ripete in tutte le salse una cosa che i russi hanno assolutamente bisogno di sentirsi confermare e che si può riassumere così. Nessuno ha il diritto di dire a 150 milioni di persone che 70 anni della loro vita, della vita dei loro genitori e dei loro nonni, che ciò in cui hanno creduto, per cui hanno lottato e si sono sacrificati, l'aria stessa che respiravano, nessuno ha il diritto di dire che tutto questo è stato una merda. Il comunismo ha fatto delle cose orribili, d'accordo, ma non era uguale al nazismo. L'equivalenza tra i due, che gli intellettuali occidentali danno ormai per scontata, è un'infamia. Il comunismo è stato qualcosa di grande, di eroico, di bello, qualcosa che credeva nell'uomo e gli dava fiducia. Il comunismo aveva in sé una parte di innocenza e nel mondo spietato che è venuto dopo tutti lo associano confusamente alla propria infanzia, a ciò che commuove quando riaffiorano i ricordi dell'infanzia. Sono sicuro che Putin fosse assolutamente sincero quando ha pronunciato la frase che ho riportato in esergo a questo libro. Chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello, chi non lo rimpiange è senza cuore. Sono sicuro che essa gli sia sgorgata dal profondo del cuore, perché tutti hanno un cuore. Ed è una frase che in Russia parla al cuore di tutti, a partire da Limonov, il quale, se si trovasse al posto di Putin, certamente direbbe e farebbe tutto quello che Putin dice e fa. Ma Limonov non è al posto di Putin e non gli resta che occupare quello così incongruo per lui di oppositore virtuoso, difensore di valori in cui non crede, democrazia, diritti umani e stronzate del genere, al fianco di persone oneste che incarnano tutto quello che lui ha sempre disprezzato. Non esattamente uno scaccomatto, ma certo, in queste condizioni, non è semplice saper stare al proprio posto. La procedura non è cambiata, tranne che stavolta a guidarmi dal capo non sono più due Nazbol ma uno solo, e che questi non viene a prendermi in auto ma mi dà appuntamento a un'uscita del metrò. Mi ricordo di lui, Mitya. L'ho conosciuto 2 anni prima. Anche lui si ricorda di me, e così nel quarto d'ora di strada a piedi fino al nuovo appartamento di Edward chiacchieriamo un po'. Non è giovanissimo, ha 30 anni, e come tutti i membri del partito che ho conosciuto ha una bella faccia, aperta, intelligente, cordiale. È vestito di nero ma non porta più jeans e giubbotto. Il cappotto di buon taglio, sopra una giacca a spina di pesce, dà l'idea di uno che se la passa bene. È sposato, mi dice, ha una bambina e uno di quei lavori legati a internet che non capisco mai in che cosa consistano di preciso, ma che permettono di vivere più che discretamente. Ho l'impressione che per lui dedicare qualche ora alla settimana alla protezione di Edward Limonov sia un modo per restare fedele agli ideali di gioventù, come altri continuano a suonare in un gruppo rock dilettante, pur sapendo benissimo che non sfonderanno mai, solo per il piacere di ritrovarsi con gli amici. Quando gli chiedo come vanno le cose, la politica e il resto, mi sorride e risponde «normal», con lo stesso tono in cui il proprietario di un ristorante direbbe «non c'è gran movimento». L'ascensore è guasto, ci tocca salire a piedi fino al 9° piano di un palazzo modesto. Mitya mi fa entrare, con le consuete precauzioni, nel piccolo bilocale dove mi aspetta Edward, sempre in jeans e maglione nero, sempre asciutto, sempre con il pizzetto. Cerco un posto dove appoggiare il cappotto. Nella stanza ci sono soltanto un tavolo, una sedia e un letto singolo. Edward mi spiega che è stato condannato a pagare 500.000 rubli per aver detto in un'intervista che i giudici di Mosca sono agli ordini del sindaco Lushkov, fatto di dominio pubblico. Gli hanno pignorato tutto il pignorabile, ma i suoi beni sono serviti a pagare appena 1/10 dell'ammenda. Deve ancora saldare il conto. Lasciamo Mitya a leggere il giornale seduto sull'unica sedia della camera da letto e andiamo in cucina, dove di sedie ce ne sono 2. Edward prepara il caffè, io apro il taccuino. Gli ho comunicato per email la mia intenzione di scrivere non più un articolo, ma un intero libro su di lui. La sua risposta è stata neutra, né entusiasta né riluttante. È a mia disposizione, se credo. Le mie ricerche sono già a buon punto e ho buttato giù una specie di abbozzo. Penso che mi servirebbe fargli una lunga intervista con calma, parecchie ore, forse parecchi giorni, ma non ne sono sicuro e per prudenza non gliel'ho ancora chiesto. Allora, che cosa è successo in questi 2 anni? È successo innanzitutto che la moglie, la bella attrice, lo ha lasciato. Edward non ha capito bene perché. Non gli passa neanche per la mente che possano aver contato i 30 anni di differenza, nonché l'impossibilità di fare un passo senza la scorta di 2 teste rasate. All'inizio sarà pure romanzesco, poi diventa pesante. Edward dice di aver sofferto per qualche mese, dopodiché ha pensato che fosse una donna fredda, falsa, poco affettuosa. Lo ha deluso. Nel caso mi preoccupassi per lui, mi assicura che ha parecchie amanti, tutte giovanissime, e non dorme ogni notte nel letto singolo della camera accanto. Continua a vedere i figli, e questa è la cosa più importante. I figli, sì. Edward ha anche una bambina, Alexandra. Il bambino si chiama Bogdan, il ricordo degli anni serbi. Secondo me gli è andata bene. Avrebbe potuto chiamarsi Radovan o Ratko. Fine del capitolo vita privata. Passiamo alla vita pubblica. Non lo dice chiaramente, ma si capisce che gli gira male. L'occasione storica, sempre ammesso che ce ne sia stata davvero una, è passata. Kasparov, esasperato da 1000 vessazioni, non ha nemmeno provato a candidarsi. E dopo quello che non può neanche essere definito un insuccesso alle presidenziali, il movimento Drugaja Rossija ha cessato di esistere. Ma Edward non molla. Ha fondato un nuovo movimento che si chiama Strategia 31. Dal numero dell'articolo della Costituzione che garantisce il diritto di manifestare. Per avvalersi di questo diritto, gli aderenti al movimento si riuniscono tutti il 31 del mese, quando c'è un 31 del mese, in piazza Triumfalnaya. In genere ci sono 100 di manifestanti e 5 volte maggiore di poliziotti, e i secondi arrestano 10 dei primi. Così Edward passa periodicamente alcuni giorni in prigione I corrispondenti esteri inviano pro forma un'agenzia sull'accaduto. A parte questo, Edouard cerca di organizzare e dirigere un'assemblea nazionale delle forze di opposizione. Progetto che riscuote il plauso di alcuni vecchi democratici e difensori dei diritti umani e che Kasparov ha fatto del suo meglio per ostacolare lanciando una sua piattaforma. Quindi adesso i due sono rivali. Ma anche la loro rivalità mi sembra un po' fiacca. Edouard è contento che il proprio sito internet abbia più contatti di quello di Kasparov. Che altro? Attività letteraria. Dal nostro ultimo incontro ha pubblicato 3 libri, uno di poesie, una raccolta di articoli e uno di ricordi delle guerre serbe. Ma scrivere non gli interessa più di tanto ormai. Oggi rende troppo poco. Le tirature arrivano al massimo a 5 o 6 mila copie, non si fanno ristampe. Edouard preferisce guadagnarsi da vivere con articoli per riviste patinate o settimanali gossipari. E così abbiamo esaurito l'ordine del giorno. Sono 4, si è fatto buio, si sente il ronzio del frigorifero. Edouard si guarda gli anelli alle dita, si accarezza il pizzetto da moschettiere. Non siamo più in 20 anni dopo, ma nel Visconte di Bragelonne. Io ho finito le domande e a lui non viene neanche in mente di rivolgermene una. Che so su di me? Che cosa faccio, come vivo? Se sono sposato, se ho figli? Se preferisco i paesi caldi o quelli freddi? Stendhal o Flaubert, gli yogurt naturali o quelli alla frutta? Che tipo di libri scrivo, visto che sono uno scrittore? Edouard sostiene che l'interesse per gli altri fa parte del suo programma di vita e probabilmente si interesserebbe a me se mi avesse conosciuto in prigione, reo di un bel delitto con grande spargimento di sangue, ma non è questo il caso. In questo caso sono il suo biografo. Io lo interrogo, lui risponde. Quando ha finito di rispondere, Edouard resta in silenzio, guardandosi gli anelli e aspetta la domanda successiva. Penso che non ho nessuna voglia di sorbirmi svariate ore di una conversazione del genere, che me la caverò benissimo con quelle che ho. Mi alzo, lo ringrazio per il caffè e per il tempo che mi ha dedicato, e alla fine, quando sono ormai sulla porta, una domanda me la fa. È strano però, perché vuole scrivere un libro su di me? Sono colto di sorpresa, ma rispondo con sincerità, perché ha avuto, non ricordo più il tempo che ha usato, una vita appassionante. Una vita romanzesca, pericolosa. Una vita che ha accettato il rischio di calarsi nella storia. E a questo punto Edouard dice qualcosa che mi lascia di sasso. Con la sua risatina brusca, senza guardarmi. Già, una vita di merda. Non mi piace questo finale e penso che non piacerebbe nemmeno a lui. Penso anche che chiunque si arrischi a formulare un giudizio sul karma altrui e persino sul proprio può essere sicuro di sbagliarsi. Una sera metto a parte di questi dubbi il mio figlio più grande, Gabriel. Gabriel è un montatore. Abbiamo appena scritto insieme 2 sceneggiature per la televisione e mi piace molto fare con lui le classiche discussioni da sceneggiatori. Questa scena funziona, quell'altra no. In fondo, mi dice, ti secca mostrarlo come un loser. Concordo. E perché ti secca? Hai paura che ci rimanga male? Non proprio. Insomma, un po' sì. Ma penso soprattutto che non sia un buon finale, che il lettore resterà deluso. Questo è un altro discorso, osserva Gabriel, e mi cita una quantità di grandi libri o grandi film in cui il protagonista finisce con il culo per terra. Toro scatenato, per esempio. Nell'ultima scena si vede il pugile interpretato da De Niro ormai alla frutta, sconfitto su tutti i fronti. Non ha più niente, né moglie, né amici, né casa. Si è lasciato andare, è grasso, si guadagna da vivere facendo un numero comico in uno squallido night. Seduto davanti allo specchio del suo camerino, aspetta che lo chiamino in scena. Quando lo chiamano, si alza pesantemente dalla sedia. Poco prima di uscire dall'inquadratura, si guarda allo specchio. Saltella da un piede all'altro, mima qualche colpo di box e lo si sente mormorare piano piano, soltanto per se stesso. Sono il più forte, il più forte, il più forte. È patetico, è magnifico. 1000 volte meglio, dice Gabriel, che vederlo in trionfo sul podio. No, davvero, finire con Limonov che dopo tutto quello che ha vissuto conta se ha più amici di Kasparov su Facebook può funzionare. È vero, e tuttavia c'è qualcosa che continua a disturbarmi. Va bene, consideriamo il problema da un altro punto di vista. Quale sarebbe per te il finale ideale? Voglio dire, se dovessi decidere tu, che prenda il potere? Scuoto la testa. Troppo inverosimile. Invece nel suo programma di vita c'è qualcosa che non ha fatto. Fondare una religione. Dovrebbe mettere da parte la politica, visto che, diciamocelo, in politica non cava un ragno dal buco, ritornare nell'altai e diventare il guru di una comunità di fanatici, come il barone von Ungern-Sternberg, o meglio ancora, un vero saggio. Una specie di santone, insomma. Questa volta è Gabriel ad arricciare il naso. Credo di sapere, dice, quale finale ti piacerebbe davvero. Che lo facessero fuori. Dal suo punto di vista sarebbe del tutto coerente con il resto della sua vita. Una fine eroica, che gli risparmierebbe di morire di cancro alla prostata, come uno qualsiasi. Dal tuo, il libro venderebbe 10 volte di più. E se poi lo avvelenassero con il polonio, con Litvinenko, venderebbe non 10 ma 100 volte di più in tutto il mondo. Dovresti dire a tua madre di parlarne a Putin. E lui, Limonov, che ne pensa? Un giorno di settembre del 2007 siamo andati insieme in campagna. Credevo fosse per un comizio e invece no. Era per vedere una dacia a 2 ore da Mosca che la moglie di quel periodo, la bella attrice, aveva appena comprato. In realtà era molto di più di una dacia. Era quella che viene chiamata una usatba, ossia una vera e propria tenuta. C'era uno stagno, dei prati, un bosco di betulle. La vecchia casa di legno, abbandonata e devastata dai vandali, era immensa. Doveva essere stata magnifica. E lo poteva ridiventare se ristrutturata. Limonov era lì per questo. Appena arrivato, ha cominciato a discutere con un artigiano del posto, come uno che, avendo esperienza di lavori manuali, sa discutere con un capomastro senza farsi fregare. Mentre i due parlavano, sono andato a fare un giro nel parco invaso dall'erba alta. E quando, sbucando da un sentiero per passeggiate a cavallo, ho rivisto da lontano, in una pozza di luce, la minuta figura di Edouard vestita di nero, battagliera, il pizzetto scomposto, ho pensato, ha 65 anni, una moglie adorabile, un figlio di 8 mesi. Forse ne ha le scatole piene della guerra, dei bivacchi, del coltello nello stivale, della polizia che picchia la porta all'alba, delle brande delle prigioni. Forse ha finalmente voglia di disfare la valigia, di sistemarsi qui, in campagna, in questa bella casa, come un proprietario terriero dal tempo degli zar. Al posto suo io ne avrei voglia. Ne ho voglia. È proprio la vecchiaia che mi auguro per noi, per me e per Hélène. Immagino grandi librerie, comodi divani, grida di nipotini in giardino, marmellate di frutti di bosco, lunghe conversazioni sulle sdraio. Le ombre che si allungano, la morte che si avvicina piano piano. La vita è stata bella perché ci siamo amati. Forse non finirà così, ma dipendesse solo da me, così mi piacerebbe che finisse. Sulla via del ritorno gli domando, potrebbe invecchiare in quella casa, Edouard? Finire come un eroe di Turgenev? Si mette a ridere. Stavolta non con un risolino secco, ma di cuore. No, non ci si vede. Proprio no. La pensione, la vita tranquilla, non sono cose per lui. Lui per la sua vecchiaia ha un'altra idea. Conosce l'Asia centrale? No, non la conosco. Non ci sono mai stato. Ma già da bambino ho visto delle fotografie. Quelle scattate da mia madre nel lungo viaggio durante il quale mio padre si è occupato di me con affetto maldestro. All'epoca i padri non avevano l'abitudine di occuparsi dei figli piccoli. Erano foto che mi angosciavano e mi facevano sognare. rappresentavano per me l'assoluta lontananza. Di tutti i luoghi del mondo, continua Eduard, l'Asia centrale è quello in cui si trova meglio. In città come Samarcanda o Barnaul, città schiantate dal sole, polverose, lente, violente. Laggiù, all'ombra delle moschee, sotto le alte mura merlate, ci sono dei mendicanti. Un sacco di mendicanti. Sono vecchi e maciati, con i volti cotti dal sole, senza denti, spesso senza occhi. Portano una tunica e un turbante anneriti dalla sporcizia. Ai loro piedi è steso un pezzo di velluto su cui aspettano che qualcuno getti qualche monetina, e quando qualche monetina cade, non ringraziano. Non si sa quale sia stata la loro vita, ma si sa che finiranno nella fossa comune. Sono senza età, senza beni, ammesso che ne abbiano mai avuti. È già tanto se hanno ancora un nome. Hanno mollato tutti gli ormeggi. Sono dei relitti. Sono dei re. Questo sì che gli piace.